Uno, nessuno e 100.000 vada ad ascoltare l'Italia profonda. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati con Uno, nessuno, 100.000. Riparte di fatto questa settimana un po' più corta. Se vi siete attardati durante la giornata di Pasquetta nei vostri pranzi luculiani, fatti a casa comunque, da soli, in solitudine, sono anzi curioso di capire come Leonardo Manera abbia passato la Pasqua. Ce l'aveva già detto, ma alle 9.30 vorrò sapere proprio il menù di Pasqua e Pasquetta di Leonardo Vestagliona Manera. Cosa si sarà fatto? Una pizza surgelata? Cosa si sarà fatto? Si sarà riscaldato un minestrone lasciato lì da 5 giorni in frigorifero? Sono molto incuriosito, non lo so voi. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, lo sapete, i vostri messaggi audio, come la presigla del nostro caro amico ascoltatore che evidentemente soffriva di un pochino di solitudine, ma adesso lo rincuoreremo con una telefonata. Potete chiamarci all'800 24 0024. La nostra redazione è qui, o meglio non è qui, ma comunque al gran completo, divisi ma uniti, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, il nostro alpino in regia. Oggi saluto e ringrazio anche Jacopo De Franchi che ci aiuta lì in regia per fare in modo che tutto vada al meglio. Allora, caro alpino, possiamo partire. Ale. Enthusiasm about the future. Allora, cari ascoltatori, abbiamo come al solito tante cose che vogliamo dirvi, e voi anche, immagino. Noto e sento, frequentando un po' i social, che c'è un po' più di fastidio, di rabbia un po' che si insinua tra i nostri cittadini, che si cominciano a chiedere, per la verità se lo chiedono da un po' di giorni, ma che cavolo sta succedendo? Allora, qual è la prospettiva? Cosa succede? Oggi parte questa fase 2 che nessuno ha capito bene in che cosa si concretizzi, qualche apertura, qualche riapertura. Una cosa è certa, regione che vai, ordinanza che trovi. Ecco, questa è l'Italia delle tante autonomie, dei tanti campanili, delle 20 regioni, dell'ognuno per sé e tutti per ciascuno. Sono le regioni che decidono. Devo dire, la regione Veneto è quella che con Zaia si spinge a una riapertura morbida un po' più ampia rispetto agli altri. D'altronde facevo questa riflessione leggendo pagina 2 della Stampa, Federico Capurso. D'altronde questo è il paese in cui siamo arrivati contandoli a circa 200 esperti in campo chiamati nelle varie commissioni dal governo. 200 esperti. Uno dice: accidenti, se si mettono 200 cervelli e tutti insieme partoriranno sicuramente il sistema della ripartenza perfetto. E invece, come al solito, è chiara la legge secondo la quale se già metti 3 persone fai fatica, 4 sempre di più, 5 anche, 6, e man mano che cresce il numero di persone che devono decidere non si decide nulla, oppure si decide ognuno come crede. Perché 200 persone? Beh, l'ultima è la squadra formata con presidente, con a capo il manager Vittorio Colao, e lo sappiamo, è già quella una task force con diversi componenti che lavorerà in parallelo con il Comitato Operativo della Protezione Civile, all'interno del quale è confluita la task force del Ministero della Salute, ma c'è anche, bisognerà fare i conti con i pareri del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, se sarà il caso anche con le task force del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Innovazione. Mettete insieme 200 persone e il risultato è quello di ottenere, invece che più certezze, più incertezze. È abbastanza chiaro. D'altronde io lo so che molti italiani si chiedono: sentivo poco fa anche il professor Lopalco da Simone Spezia e Maria Latella, molto interessante, si chiedono: ma la Francia, che con l'annuncio di Macron vuole riaprire le scuole l'11 maggio, la Spagna, che è praticamente nella situazione in cui era l'Italia qualche giorno fa e dice proviamo a rilanciare il paese, la Germania, che vuole riaprire le scuole, che vuole rilanciare il paese, ma che sono matti loro? Siamo più sfigati noi, più incapaci, sono più azzardati loro? Io non ho le risposte, guardate bene, vi sto lasciando delle domande. Certo, non voglio sentire la risposta che qualche politico ormai mette in avanti come il refrain, ma noi seguiamo gli scienziati, perché in Francia, in Germania, in Spagna seguono i rabdomanti, non credo che anche loro seguano gli scienziati, no? Allora mi chiedo come mai l'Italia sia in questa fase di paralisi prolungata dalla quale non riusciamo proprio a schiodarci se non lentamente. Poi c'è la grande bufala, qua glielo devo dire che mi ha stancato definitivamente, degli italiani indisciplinati, non se ne può più. Poco fa il vice ministro Mauri ha detto che non è vero, gli italiani sono abbastanza disciplinati. Io dico sono molto disciplinati, come scrive oggi Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera: l'italiano sbuffa, eccepisce, minaccia, ma alla fine si adegua. E in effetti sono percentuali, scrive Gramellini, di rigorosi e rispettosi della legge, percentuali da paese asburgico. Se allora io devo fare un appello davvero ai colleghi, ai giornalisti, di ribellarsi un po' a questa propaganda che viene diffusa del cittadino che è incapace di rispettare le norme. Le stiamo rispettando nella media benissimo. Volete un esempio concreto? Ieri ascoltavo il TG5 alle ore 13 e sentite un pezzo del servizio della collega sulla questione delle sanzioni. Vai. Da nord a sud del nostro paese si festeggia, si fa per dire, nelle proprie abitazioni, in famiglia. Ma non tutti come purtroppo rispettano dire le regole. Anche ieri no, ci sono stati tanti, troppi trasgressori. Tanti, nella sola troppi. Milano su 10.000 controlli, 487 sì, persone multate. A Roma 30.000 fermati, 200 sanzionati. Tanti, troppi che violano le regole. E poi dai numeri la collega. 30.000 controlli a Roma, 200 sanzionati. Oh, basta una proporzione da seconda elementare, fa lo 0,6%, anzi 0,4% di irregolari, perché secondo alcuni in realtà sono 124 le sanzioni, ma mettiamo 200 sanzioni, quello lo 0,6% di irregolari. A Milano un pochino di più, effettivamente 487 sanzioni su 10.000 sono il 4,87%, ma voglio dire, tanti, troppi che sbagliano? Lo 0,6% sono tanti? Cioè cosa dobbiamo fare? 0,6%? Allora io sono abbastanza stanco di sentire questa propaganda sugli italiani che sono irrispettosi della legge, perché forse serve a coprire qualche magagna che è stata fatta, forse serve a coprire qualche errore che è stato fatto. Magari ci parlassero un po' di più del perché tantissimi positivi sono stati lasciati a casa. Certo, non ci sono posti per tutti in ospedale e quindi in famiglia ora si stanno diffondendo i contagi. Ci spieghino perché le mascherine non sono arrivate ai medici, che sono caduti uno dopo l'altro come delle foglie in autunno, no? Dagli alberi, e sono caduti e sono morti. Ci spieghino come mai viene fatta questa cosa della, per carità, ripartire, ma le aziende che riaprono con il silenzio assenso e i controlli dove sono. Ci spieghino perché i mezzi pubblici all'inizio sono stati tenuti aperti ma con corse ridotte, quindi la gente si ammassava sugli autobus. No, il problema è che sono gli italiani indisciplinati. Poi uno va a vedere i dati, praticamente le città sono immobili e nessuno si sposta. Comunque questo è. Comunque come ha detto Conte nella celebre conferenza stampa che ha fatto litigare il premier con il direttore del TG7 Enrico Mentana, duello all'arma bianca a colpi di comunicati. Conte, com'è il nuovo slogan che dobbiamo utilizzare? Vai Alpino. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Eccolo qua. Questo governo non lavora nel favore delle tenebre. Su questo, ecco, devo far sentire anche questo audio. Devo dire, è un audio che è dal SEN sfuggito, evidentemente dall'assessore alla regione Lombardia Mattinzoli, che, premessa, ha preso il coronavirus, è stato in terapia intensiva, quindi evidentemente ha passato dei giorni drammatici, dei giorni davvero raccontati da lui, a rischio vita. Solo che il senatore, l'assessore Mattinzoli, assessore regionale della Lombardia allo sviluppo economico, a un certo punto, mentre si stava riprendendo da questa botta tremenda del coronavirus, ha mandato un audio vocale ad alcuni colleghi di partito e ha detto: mandatelo pure ai giornali, non ho paura. È che si è lasciato, come dire, un po' trascinare dall'irruenza, forse anche dallo spavento preso per il coronavirus, dalla rabbia. E vabbè, io ve lo faccio sentire, l'assessore alla regione Lombardia Mattinzoli, vai. Quel pezzo di merda di Conte, perché qui non parlo da assessore regionale, neanche da coordinatore al partito, parlo da piccolo imprenditore cittadino, quel pezzo di merda di Conte e di tutto il suo governo, facesse a meno di criticare la Regione Lombardia, che di errori magari può darsi che ne abbiamo anche commessi, ma abbiamo lavorato seriamente. Sono contro ogni forma di violenza. Io mi auguro che Conte venga finita questa emergenza e ne prenda tante, è l'augurio che faccio io, e potete mandarla ai giornali questa registrazione perché non me ne fregherebbe niente. Ne prenda tante, perché i bergamaschi e i bresciani hanno voglia di dargliele. Eccolo qua, vabbè, dai. Luciano Capone del Foglio, buongiorno Luciano, buongiorno, ben ritrovato. Eccoci qua, allora, non commentiamo questo, no, questo io dico audio dal SEN sfuggito all'assessore Mattinzoli, diciamo, no, che però... Perché scatenare questi istinti poi rischiano anche gli assessori regionali, cioè sì. Meglio, diciamo, non provocare le persone esasperate. No, è chiaro, però l'ho mandato in onda perché giustamente lui ha detto mandatelo pure ai giornalisti, io non ho problemi. Certo, poi un giorno, io l'ho detto già da un po' di tempo fa, però ci sarà un momento, Luciano, in cui secondo te si potrà anche abbozzare timidamente qualche piccola polemica? Io già qualcosa ho detto, insomma, sulla gestione, e con tutto il rispetto di tutta questa emergenza, no? Tra le mille ordinanze, le regioni che vanno sparse, il governo che adesso ha reclutato però a 200 persone tra le varie task force, cioè, si potrà abbozzare, certo, qualche timida polemica, no? Quel momento è adesso, diciamo, non so se sono critiche o polemiche, dipende dallo spirito di ognuno, ma se c'è una cosa che mi ha insegnato la storia, diciamo, che le democrazie rispetto alle dittature in queste circostanze hanno uno svantaggio, che è quello che in dittatura, come abbiamo visto in Cina, si decide in un minuto e tutti obbediscono. In democrazia è più complicato, ovviamente, quindi c'è uno svantaggio, ma lo svantaggio della democrazia è che la libertà di parola, di critica e le opposizioni consentono di valutare gli errori in corso d'opera e quindi di far aggiustare, migliorare le strategie, cosa che non avviene in dittatura, perché se c'è una decisione sbagliata la si persegue fino in fondo e si continua a sbagliare. Sì. Noi, diciamo, rinunciamo allo strumento della critica, che a volte può essere sbagliata, a volte pretestuosa, ma è fondamentale per vedere gli errori e cercare di correggerli in corso d'opera. Vuol dire che rinunciamo a un'arma molto importante per sconfiggere, diciamo, l'epidemia e la crisi economica. Assolutamente sì. Ecco, a proposito di crisi economica, voi del Foglio avete lanciato una proposta e tra un attimo ci arriveremo, perché è molto interessante, riguarda l'agricoltura, quindi una filiera molto importante per gli italiani. Prima però ti vorrei chiedere questo: che proposte si possono fare per rilanciare l'economia? Allora, sul tavolo ne ho viste alcune. L'ex ministro Delrio ha detto facciamo una tassa per chi ha sopra gli 80.000 euro di reddito, mi pare che sia questo. la fascia indicata del Rio, una sorta di prelievo di solidarietà. Poi c'è la cara vecchia patrimoniale che ogni tanto viene tirata fuori. Ho sentito Farinetti, sono rimasto un pochino stupito, parlare e rievocare il prelievo forzoso dai conti correnti stile Giuliano Amato, non so se ve lo ricordate, forse il provvedimento più odiato nella storia dagli italiani. Cosa bisognerebbe fare, Luciano, secondo te? Secondo me, diciamo, al momento, diciamo, è il momento più sbagliato per questo tipo di operazioni, per un semplice motivo, anche perché diciamo, l'imposta sui redditi straordinaria, chiesta ad esempio da Del Rio ed altri, sicuramente farà riferimento, diciamo, a me se non concesso che uno sia favorevole, ma farà riferimento molto probabilmente ai redditi dell'anno scorso, e non è detto che quest'anno quelle persone non siano tra le più colpite dalla crisi. C'è un professionista che l'anno scorso ha dichiarato 80.000 euro, 90.000 euro, probabilmente quest'anno è quello che ha subito di più la crisi, quindi si chiederà un contributo straordinario a questa persona sui redditi dell'anno scorso proprio nell'anno in cui è più colpito. Cioè, diciamo, siamo in una situazione talmente eccezionale che non ci fa distinguere bene, diciamo, chi è ricco da chi sta subendo i danni della crisi, diciamo, ricco se si intende appunto ricco in quelle fasce di reddito. Quindi al momento, diciamo, bisogna fare quello che sta facendo il governo, diciamo, indebitarsi, quello che fanno tutti gli stati, nessuno sta mettendo delle tasse, bisogna indebitarsi cercando di farlo a tassi molto bassi, e questo ci sta aiutando tantissimo la BCE e anche il nuovo pacchetto europeo per non far aumentare i tassi di interesse che dovremmo pagare successivamente. Quando sarà superata la crisi, poi, diciamo, le varie forze politiche avranno le loro idee su che tipo di riforma fiscale fare, ma fare una riforma fiscale adesso, diciamo, è il momento meno opportuno per quanto è eccezionale. E per il prelievo forzoso, che ne pensi? Io quando l'ho visto ho fatto un pochino un salto sulla sedia, l'ho fatto, devo dire. Per fortuna Farinetti, diciamo, non è al governo, ecco, diciamo, non lo so, ma un po' di... le persone già sono spaventate per molte cose, diciamo, lanciare proposte così, tra l'altro senza neppure molti dati. Ho visto anche questo, il prelievo forzoso non era quantificato, ma anche questa extra tassa, il gettito era 1,5 miliardi, cioè lo 0,05% del PIL, diciamo, è anche a livello quantitativo è insignificante per le necessità che abbiamo attualmente, quindi non so, sono proposte un po' suicide. Sei perplesso. Allora, veniamo alla proposta del Foglio. In realtà noi già qualche giorno fa con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che l'aveva lanciata, aveva detto qualcosa a proposito, ne avevamo parlato. Allora, il Foglio, tu hai scritto un articolo con Stagnaro qualche giorno fa, intanto è partito da qualche dato. Sapete che ci sono moltissimi irregolari, e spesso, quindi si parla di stranieri, irregolari, che spesso vengono utilizzati in alcuni campi, l'edilizia, il 16% sono stimati di stranieri irregolari che lavoravano, forse bisogna usare il passato, nell'edilizia, il 23% in agricoltura e il 58% i lavoratori domestici. Allora, voi vi concentrate sul tema dell'agricoltura, che è una filiera importante, sottolineate anche dicendo molto sovranista, ecco, quasi andate un po' a grattare la pancia a Salvini, a Meloni, a dire, allora, se vogliamo una vera sovranità alimentare, dovremmo fare che cosa? Regolarizzare tutti quegli stranieri che lavoravano nell'agricoltura e ora non possono più farlo. Certo, e anche gli altri, perché adesso abbiamo un doppio problema. Diciamo, con l'emergenza coronavirus, da un lato molti stati stanno, come è accaduto per le mascherine, stanno mettendo delle barriere all'export. La Russia ha vietato l'esportazione di grano. In Asia molti paesi, quelle di riso, ad esempio mi pare l'India, adesso non voglio, il Vietnam, non voglio sbagliarmi, ma il Kazakistan e così tanti altri paesi su grano e riso hanno vietato le esportazioni. L'Italia non è un paese autosufficiente, quindi importa queste materie prime alimentari che non avremo in quantità ridotta o a costi più elevati. E a questo si aggiunge il fatto che non avremo molti stagionali, perché molti lavoratori dall'est Europa che venivano per raccogliere nei campi non ci saranno a causa dell'emergenza coronavirus, quindi mancherà la produzione interna e mancherà anche, diciamo, l'import dall'estero. E a questo punto la cosa che avevamo pensato, ma tra l'altro su questo sono d'accordo anche le associazioni dei produttori come la la CIA, diciamo non la CIA, quella americana, la CIA diciamo da Confederazione degli Agricoltori e Confagricoltura. Attenzione a dire queste cose, perché se non vuole la CIA basta, diventa no, è la Confagricoltura, insomma. Confederazione Italiana Agricoltori. Esatto. Sono favorevoli a una regolarizzazione perché in assenza di questi stagionali sarà possibile agli alle persone che già sono sul territorio italiano fare dei contratti regolari, andare diciamo a raccogliere gli ortaggi, i pomodori, insomma tutte le materie prime che servono per banchi dei nostri supermercati, perché rischiamo una scarsità di questi prodotti. No, ma io vorrei sottolineare questa cosa, Luciano, perché la proposta viene da persone liberali, cioè non lo dico perché se la proposta venisse da frange di sinistra estrema sarebbe per questo in maniera preconcetta sbagliata. Sto dicendo che l'argomento è scivoloso, perché come sai, quando si parla alla pancia del paese si sente la parola immigrazione, regolamentazione, regolarizzazione, subito scattano quegli istinti, no? E io immagino arriveranno telefonate, messaggi a dire ecco no, ci invadono. No, stiamo parlando di una cosa ben più seria, un fenomeno che già c'è, c'era e se vogliamo i peperoni, le fragole e i meloni sulle nostre tavole, o se non li vogliamo tra poco, o li vogliamo magari a prezzi esorbitanti, forse è una decisione da prendere da questo punto di vista. Come dicevi tu, diciamo, non si sta chiedendo che arrivino altri immigrati, anzi, proprio perché non ne arriveranno a causa della crisi, si tratta di regolarizzare quelli che già ci sono. E l'altro tema è che siccome questi immigrati irregolari, data dalla crisi, non possono in alcun modo rientrare nei loro paesi, cioè al loro proibito, sono obbligati a restare qui e a restare in maniera illegale. E l'altro tema è quello sanitario, cioè sono 600.000 persone circa, sono le stime ufficiali più attendibili, che sfuggono anche a qualsiasi tipo di controllo sanitario, di monitoraggio, di controllo dell'epidemia. Sono quasi due città come Bologna, Firenze o Bari, Venezia. E poi c'è l'aspetto fiscale, voi l'avete sottolineata questa stima, no? Perché almeno entriamo nel portafoglio delle persone in maniera positiva. Pare che questo possa portare a benefici fiscali di 1.200.000.000 di euro. Questa è la stima che ho letto nel vostro articolo? Sì, questi sono dati anche che fanno qualche tempo fa, la situazione economica è leggermente cambiata, sono quelli più attendibili. Però appunto c'è anche un beneficio economico e c'è anche un tema che, ad esempio, hai parlato dell'agricoltura, ma parliamo anche del lavoro domestico. Molti di quegli immigrati che lavoravano già nelle nostre case, nelle nostre famiglie ed erano irregolari, attualmente non possono neppure spostarsi non avendo un contratto regolare, non hanno un permesso per poter lavorare nelle case italiane perché non hanno questo contratto. E essendo irregolari non possono neppure accedere a un contratto regolare, cioè è proprio proibito regolarizzare una persona che è irregolare. E quindi questo crea anche carenze di servizi nelle case italiane, crea un problema sia nelle case che in settori come quello dell'agricoltura. Quindi il tema economico è è rilevante, non si sta dicendo nuovi immigrati, perché appena giustamente direbbero non c'è lavoro per noi, arriveranno altre persone. Si parla di quelli che già ci sono. Allora, vedremo, so che il ministro Teresa Bellanova è abbastanza favorevole, nel governo ovviamente ci sono delle posizioni diverse, l'opposizione abbiamo detto, Salvini e Meloni è molto molto contraria, anche se voi sottolineate una strana distorsione in questo, a dire ma come sovranisti, e poi appunto questo è un provvedimento per la sovranità alimentare, no? per essere autonomi. Dovrebbero appoggiarlo. Posso aggiungere un altro punto che è curioso su Salvini, è che il decreto sicurezza di Salvini, cioè proprio quello fatto da Salvini, prevede il cosiddetto permesso di soggiorno per calamità naturale, che può essere, che deve essere concesso in caso di calamità naturale nei paesi di destinazione di questi paesi, quindi siamo in una pandemia, e nell'impossibilità del rimpatrio di queste persone, adesso è tutto bloccato, di concedere un permesso di soggiorno a chi è impossibilitato a tornare a casa, nella sua patria, per una calamità naturale. Ed è proprio questa la circostanza. Quindi è prevista anche dal decreto sicurezza di Salvini, e diciamo Salvini aveva previsto in tempi non sospetti, quindi sarebbe assurdo non attuare quelle regole, che servono a proteggerci anche dal punto di vista sanitario, perché si potranno controllare delle persone che al momento sono un po' dei fantasmi. Chiaro. Allora Luciano, vedremo cosa succede. Intanto io ti ringrazio, Luciano Capone del Foglio. Noi abbiamo anche tu sai che noi abbiamo il premio Giachetti, conosci questo? No? Ne hai mai sentito parlare, caro Luciano? Certo. È leggendario. No, perché sai, c'è anche questa meravigliosa deputata ex Movimento 5 Stelle, Sara Cunial, che è stata pizzicata mentre andava al mare, qualcuno dice, invece lei dice non stavo andando al mare, ero nelle mie funzioni di parlamentare, tra l'altro nella commissione agricoltura, per cui insomma un qualcosa di bizzarro. Io sentivo un po' profumo, non so se la regia, quando ho sentito queste parole, insomma, hai la faccia come il culo, però non lo so se tu, Luciano Capone, vuoi o pensi un giorno di assegnare una sorta di premio Giachetti. Stai attento, ovviamente, perché lascio a te questo incredibile e rischiosa incombenza, va bene. Allora staremo a vedere. Ringrazio Luciano Capone del Foglio e andiamo un attimo in pubblicità, grazie Luciano, per capire poi davvero come Leonardo Manera ha passato Pasqua e Pasquetta. Ce l'aveva detto, ma il menù, io voglio sapere il menù di Pasqua e Pasquetta di Leonardo Manera, tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, gli esperti dicono che stiamo ancora nella fase 1. Tu stai avanti, ma così è troppo avanti. Ogni volta che in Italia c'è una crisi, si pensa che la soluzione sia mettere le mani nelle tasche degli italiani. E tra Conte, governo, governatori, assessori, eccetera, eccetera, qui da dargliene, ce ne sarebbe da dargliene, ma dargliene tante a tutti quanti, che te non lo sai nemmeno, guarda. No. Non esageriamo. Non esageriamo. Qualcuno addirittura ha detto: non dovevi mandare in onda l'audio. Vabbè, insomma, l'audio dell'assessore, però ha detto mandatelo pure ai giornali, quindi non è che possiamo non mandarlo. Va bene, eccolo. Buongiorno. Qua. Ci sono, qui presente, buongiorno. Leonardo Manera, come hai passato il tuo menù di Pasqua? Forza, eccoci qua. Ricordo solo pranzo, perché a cena non ricordo cosa ho mangiato a Pasqua. A pranzo pizza surgelata, avevi indovinato, bravo. No, dai, ragazzi, a pranzo, invece ieri, a Pasquetta, ero con mio figlio era con me, e quindi ho cucinato. E gli ho fatto pasta alla carbonara leggera, cioè senza formaggio, pollo alla diavola e yogurt. Questo com'è stato, Beniamino? Ti è piaciuto? È stato buonissimo! Oh, questo in barba a te, perché volevi denigrarmi. No, maledetto, ma io non volevo denigrarmi. Maledetto, non volevo, maledetto, ma no, non volevi no, denigrare non, le mie qualità non culinarie. Non volevo denigrarti, poi, no. Si sta lamentando Beniamino, sì, dopo aver recitato bene si sta lamentando in sottofondo. No. Ma ieri ho sentito prima da Simone Spezia, io non l'ho vista, che veramente c'è stato il servizio, la telecronaca da Barbara D'Urso, di uno che era sulla spiaggia, ma veramente è successo questo? Ditemi che non è vero. Sì. Con la telecronaca. Scusa, però, È un grande format delle TV americane, no? Che con la polizia, con le TV che inseguono i criminali, sì, è un grande format. Quindi, sì, un grande format, discutibile. Posso dire che io non preferirei non vedere queste telecronache, perché questo, tra l'altro, produce anche un panico, una fobia, una paura, ma io credo perfino eccessiva. Infatti mio fratello, che fa il medico di base, mi ha detto che una signora ha telefonato, una sua paziente, gli ha telefonato piangendo perché aveva starnuto. Starnutito. Ha detto: dottore, ho starnutito, e piangeva, e piangeva. Ma si può arrivare a questi livelli di panico, di fobia? Certo che se continuiamo a andare in onda le telecronache come se fosse un criminale più pericoloso del mondo, di uno che viene inseguito con gli elicotteri perché fuori, forse qualche problema c'è, o no? Io almeno lo penso così, se posso dire. Non si può piangere per uno starnuto! Mamma mia! Va bene. Allora, Un'ultima cosa. La signora, prego, prego. La signora Latella prima ha detto che se riprenderanno le attività lavorative saranno le mamme che dovranno stare a casa con i figli. Non è necessariamente vero, io parlo del mio settore, nello spettacolo, ma non solo gli attori, i tecnici, i fonici, tutti quelli che ruotano intorno non stanno lavorando più e non lavoreremo per mesi, quindi probabilmente saranno anche i papà. Non è che sempre sono solo le mamme che si occupano dei figli. Per ultima anche cosa vorrei dire, anche è vero, non è che Dio un'ultima cosa, prego. Lombardia, qual è la differenza fra la fase 1 e la fase 2? Il numero, basta. Ah, vabbè. No, perché le maniche corte era un'altra battuta che circolava. Ma hai un'ultima cosa da dire prima del nostro ospite? Che... No, volevo solo dire che ogni tanto bisognerebbe anche sentire i medici di base che sono presenti sul territorio e che si stanno occupando anche con successo di tutte le persone che stanno curando a casa. No, ma infatti venerdì per esempio avevamo la responsabile dei medici di base della Lombardia. Adesso però abbiamo questa storia da raccontare e la affidiamo alle parole del direttore di Focus, mensile di scienza, scientifico molto importante, Raffaele Leone. Raffaele, direttore, buongiorno. Eccoci buongiorno qua. A voi, buongiorno a tutti. Allora, perché Raffaele Leone è stato protagonista proprio di una vicenda, essendosi ammalato, avendo contratto il virus, ha deciso a un certo punto di prendere un po' l'iniziativa e andare a Robbio. Noi il sindaco di Robbio lo abbiamo anche ospitato nei giorni scorsi. Direttore, prego, ci vuole raccontare? Sì, io sono uno dei tanti presunti malati, mi dichiaro presunto malato e presunto guarito, nel senso che non avendo nessuno verificato le mie condizioni direttamente, non avendo fatto il tampone che ho chiesto dal primo momento, mi dichiaro e mi ritengo presunto. La diagnosi dei medici era una diagnosi abbastanza inequivocabile, i segni erano quelli, io ogni anno faccio il vaccino antinfluenzale, quindi 2 settimane di febbre, di tutte quelle caratteristiche poi che ho avuto, le eruzioni cutanee e tante altre cose, indicavano un coronavirus endemico. E ho chiesto, ripeto, il tampone per tutelare più che altro gli altri e le persone con cui erano state a contatto con me. Alla fine l'ho chiesto ripetutamente ai numeri verdi, è stato inutile perché il tampone, mi si è risposto, in Lombardia lo si fa solo ai malati gravi. Quindi io non rientravo in questa categoria e sono rimasto a casa senza tampone. Alla vigilia, 14 giorni senza sintomi, in cui il protocollo riconosceva che sei guarito, tra virgolette, presunto guarito, perché i casi di mancata guarigione dopo i 14 giorni sono tanti, ho letto di questo caso di Robbio, di questo sindaco che, disubbidendo all'indicazione della regione, con un medico e un laboratorio di analisi fanno il test serologico. Fanno i test. Questo test serologico a vedere se uno ha gli anticorpi, che è un segnale, segnale del fatto che uno evidentemente ha preso questo virus. E quindi cioè il nostro direttore ha preso la macchina, ha violato, tra l'altro raccontando, no? Non so se è una violazione, non si capisce più niente se è una violazione o no. Sicuramente a un carabiniere che mi avesse fermato avrei spiegato: sto andando a verificare quello che non riescono a verificare le autorità, cioè se sono contagioso per la comunità. Era questo fondamentalmente lo scopo del mio viaggio. E sapevo che i test non sono sicuri al 100%, adesso ho fatto comunque il test con tutti i crismi, mi sono messo in fila al palazzetto dello sport di Robbio, ho fatto il test e la sorpresa sì. Cioè, quello che complica ancora di più la situazione, la mia situazione, è che il test è negativo. Cioè gli anticorpi sono così bassi nel mio caso che il medico che ha fatto il test ritiene che io non abbia contratto il virus. Beh, però ci sono degli anticorpi. Sì, ma bassissimi, ci sono dei valori 0,6 e 0,1 che sono veramente valori molto bassi, che secondo cioè, lui... potrebbe essere anche legato al fatto che il test non è scientificamente estremamente valido. Allora ho chiamato subito i miei medici dicendo, ma cosa ho fatto allora? Cosa abbiamo fatto con 14 giorni di febbre e con tutte quelle conseguenze, anche, ripeto, altre cose che mi sono successe, un'eruzione cutanea, il gusto completamente alterato, eccetera. E loro mi hanno detto... lo escludiamo, cioè per noi quelle sono caratteristiche certificate, lo avevano detto anche i numeri verdi della Regione Lombardia rispetto alla descrizione che avevo fatto. Quindi il rompicapo diventa ancora più complicato, perché ovvio, ho chiamato anche un virologo, il virologo mi ha detto ci sono dei margini di errore e per questo stiamo cercando e vorremmo fare un unico test con un unico criterio omogeneo su tutto il territorio, perché sennò rischiamo di avere dei risultati che sono alterati e statisticamente ci sballano. Sì, c'è da dire che ci sono tanti elementi veramente da capire. Oggi ancora l'infettivologo Massimo Galli, uno dei più celebri, sì, insomma sappiamo ormai l'ospedale Sacco, ha detto secondo me sono almeno 5 volte tanto i casi, per esempio a Milano, e comunque mettiamolo anche su tutta Italia. Alcuni dicono addirittura che sarebbero milioni i positivi, non i 100.000 come ci dicono. Mi chiedo allora i numeri che ci danno alle 18, che cosa ne dovremmo fare? Ma, insomma, perché quelli sono i numeri, diciamo, che loro certificano accertati, dai malati accertati in ospedale, dai pochissimi tamponi che fanno. Ma se non fanno i tamponi, come nel tuo caso? Il problema centrale è questo: i tamponi andrebbero fatti. Io sono diventato, da quando ho raccontato questa storia, catalizzatore di una serie di storie di persone che mi contattano, che sono anche assurde sotto un certo profilo. Mi ha scritto un signore dicendomi che il suo collega è morto di coronavirus. Lui ha chiesto il tampone dicendo guardate che io sono sicuramente a rischio, il tampone non gliel'hanno fatto, lui si è ammalato, ha contagiato sua moglie, i suoi figli non gli hanno fatto il tampone. Ma allora così sì, non siamo più. Ma ce lo dice anche Leonardo Manera attraverso tuo fratello che è medico di base, dice sempre che certamente ci sono diversi casi che tuo fratello verifica di chiaro coronavirus ai quali non viene fatto niente, viene detto state a casa, no, vengono curati, state male. Vengono curati a casa ma non viene fatto il tampone. Sì, certo. niente intendevo quello, cioè dire vengono curati dicendo se poi uno si aggrava fateci sapere. Ho capito, esatto. Però no, è abbastanza incredibile. È difficile a questo punto circoscrivere se tu non hai una mappa almeno dei malati, esatto. Ripeto, la prima linea è la prima più importante, cioè salvare le vite umane, ma c'è questa seconda linea che poi è quella che diffonde il virus probabilmente, e se non mi controlli sì, non è più. Esatto, e infatti dicono che adesso i nuovi focolai sono a casa, ma non è che la gente è stata a casa positiva perché godeva di questo, è perché esatto, evidentemente non è stata controllata. Va bene, noi, esatto, noi ti ringraziamo molto direttore, grazie per voi, questo grazie racconto per Raffaele Leone, direttore di Focus, ricordiamo. E Leonardo, te la faccio sentire, dai, che così sei contento, dai, sentitelo. Sentiamo. Da Barbara D'Urso, dai, ma sì, ma dai. Guarda, vediamo. Che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Barbara. Ecco. Allora, eccolo lì. L'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia. Quella persona! È disastro, cane maledetto! Falla tu la cronaca come farebbe Neronello, quel cane maledetto! No, bisognerebbe fare sprecazione. Quel cane schifoso gli spacco la testa a quell'uttore, affanculo, cane! Contro tutti gli italiani! Spacco la testa, uttore! Un tore! Va bene. Quindi anche a casa bisognerà stare a un metro di distanza per non contagiare. Sì. No, non è un problema, un perché tra tante coppie è già così. Beh, per tante coppie, metro... marito e moglie, sì, è già così. Un metro e 80, ti ricordi che in realtà sarebbe la distanza Manera? Noi poi non abbiamo messo in pratica questa cosa di metterti orizzontale. E tu sei 1,79 m, hai detto, no? Giusto? No, 1,81 m. Sei perfetto, la distanza Manera tra le persone, no? Facciamo un cartonato Manera e quella è la distanza. Ma tu oggi sei in radio o a casa? No, io sono a casa, ma perché ti interessa? Prima hanno anche suonato al citofono ed è andato in onda, mi dicevano c'hai il cellulare acceso, no, mi hanno citofonato, cosa devo fare? Insomma, succedono queste cose. Vabbè, dai, andiamo al traffico, attenzione. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Uno, nessuno, 100 Milan. Scusate, ma dov'è l'Italia fiera, l'Italia orgogliosa che vuole rimboccarsi le maniche e autosalvarsi da questa crisi? Ci sono centinaia di migliaia di italiani che non hanno lavoro in questo momento, non lavorano, di giovani che non lavoravano prima, a maggior ragione adesso sono a casa a non far nulla, vadano a lavorare nei campi. Cioè, quindi voi mi state dicendo che è giusto regolarizzare un immigrato perché così i peperoni possono essere pagati meno. Di conseguenza il lavoratore viene pagato poco. Cioè, anziché promuovere il fatto che siano pagati secondo contratto nazionale e non siano sfruttati, voi dite che è meglio che siano sfruttati così i peperoni sono pagati poco. No, guarda, caro ascoltatore, se vengono regolarizzati, la parola stessa regolarizzato vuol dire che vengono pagati di più e secondo i contratti nazionali. L'alternativa è che non che costino di più i peperoni, che non vengano raccolti nei campi da nessuno e quindi che non ci siano i peperoni. Non so se abbiamo un altro messaggio WhatsApp o se no c'è Beniamino che dice, un ascoltatore: Beniamino, quanto ti ha pagato il papà per dire buonissimo? Lasciamo stare, vabbè. Ma io vedo che c'è, caro Leonardo, attenzione, ci ha chiamato Manuela dalla provincia di Milano, ma è la nostra Manuela? Sì. Quale? Sì, è la nostra amica psicologa. Sì, sono io, buongiorno. Grande Manuela, come va? Buongiorno. Beh, come va? Uno schifo come la maggioranza, come per la maggioranza degli italiani, vabbè. Niente, sarò molto breve, volevo ringraziarla per due cose stamattina, Milan. Lei stamattina sì. È imbattibile. Innanzitutto volevo ringraziarla perché dall'alto della sua superiorità morale si è autodefinito un cervello e ha definito tutti quelli che osano non pensarla come lei la pancia del paese. Quindi io sono orgogliosamente l'intestino crasso del paese. Quindi io oggi quindi lei sta parlando con l'intestino crasso del paese. Ma non è vero, ma lei è molto più intelligente di me, Manuela. Non ho mica detto che io sono il cervello. No, ha ragione, probabilmente mi sono immaginata tutto. Forse questi mesi di clausura, allucinazioni uditive. No, niente, poi volevo ringraziarvi perché per aver invitato il giornalista del Foglio che nel giro di due minuti praticamente ha confermato tutte le teorie della destra che fino a qualche secondo fa erano complottismo, quindi il fatto che non si aspettava altro che una crisi per avere la scusa per regolarizzare migliaia di immigrati che sono entrati oltretutto clandestinamente in questo paese, quindi violando già in partenza le leggi. Per poter avere manodopera a basso costo con tutti i diritti. Guardi che già fino all'anno scorso raccoglievano i pomodori in maniera irregolare, cioè sono già qua, non è che adesso avete la scusa, solo che siccome soffrivano in silenzio sto solo dicendo che adesso c'è la scusa per poterli regolarizzare di modo che poi potranno votare in massa per la CGIL, iscriversi in massa alla CGIL e poi un domani votare questo. In massa per il PD, quindi tutto si tiene Guadagnare di più, per farli stare meglio, per trattarli da esseri umani quali sono. Ma

l'ora di essere liberati, ma nello stesso tempo siamo lievemente preoccupati di tornare in mezzo al cuore pulsante della vita, dove ci sono tante persone ostili, pronte a lottare anche solo per accaparrarsi l'ultimo crostino all'happy hour. E poi fuori, è vero, ci sono anche tante persone che possono diventare tue amiche, ma l'ho spiegato prima, per un uomo, per esempio, l'amicizia femminile non è mai fonte di felicità. Però almeno fino al 3 maggio noi potremo vanamente immaginare che quelle amicizie siano solo il preludio di focosi e gratificanti rapporti completi. Insomma, finché il coronavirus ce lo permette, continuiamo almeno a sognare. Bravo Leonardo, riusciamo a sentire Tommaso dalla provincia di Chieti? Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo comunicare a lei, con la speranza, se riesce a comunicarle a qualche scienziato del nostro governo, mia moglie, 73 anni, l'altro ieri, ha un negozio di abbigliamento, l'hanno costretta a chiudere, le 600 euro non gli spettano perché è pensionata e seguita a versare all'INPS 418 euro ogni 3 mesi. D'accordo? Io vorrei sapere però, con quale criterio. È pensionata, vuol dire? Beh, è pensionata, pensionata e prende una pensione 580 euro dopo 41 anni di versamenti. Mm-hmm. Certo. Tommaso, guardi... non è che possiamo se non accogliere questo suo sfogo, però io credo che le possano dire vabbè, almeno, anche se la cifra che ci ha detto non è esorbitante, riceve una pensione. Però prima di andare al giornale radio c'è questa questione, caro Leonardo, attenzione, c'è una gelosia all'interno della redazione da segnalare e denunciare, perché è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice che a Cisliano si prenotano i test sierologici a 45 euro, se volete controllate. Allora io l'ho mandato nella chat della nostra trasmissione e subito è arrivata, invece che la sfida Lucchetti, è arrivata una sfida Fusconi. Subito Elisabetta Fusconi ha detto: ecco qua i test virologici al comune di Cisliano, si fanno all'interno di una palestra, vengono controllati. Quindi c'è una grande diatriba all'interno della redazione, c'è Elisabetta Fusconi che sta cercando di scalzare il posto a Mirella Lucchetti. Sto scherzando, ma era latente, è sempre stato così, adesso vengono fuori i conflitti in modo evidente, però io ho sempre visto che c'è un odio sotterraneo tra le due. No, non è così, c'è un mistero da spiegare. Oggi Miriam Lucchetti è su un'altra trasmissione, pur essendo con noi, allora Elisabetta Fusconi ci ha mandato questa cosa, però mi piaceva così fomentare un po' di rabbia sociale. Dai, dobbiamo andare al giornale radio, poi riprendiamo la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100.000 tra poco, state con noi. Catto progressista è la versione 2.0 del catto comunismo. Uno Nessuno 100.000. Hai ragione, noi italiani siamo stati bravissimi, siamo stati a casa e continuiamo a stare a casa. Qualcun altro però deve fare un esame di coscienza. Qua in Sardegna, al di fuori di tutte le medie nazionali, abbiamo un 85%, ripeto, 85% di casi di contagio avvenuti fra gli ospedali e le residenze sanitarie o le case di cura. Manera. Usi l'umorismo per ridicolizzare tutti coloro che vanno contro il sistema, tendenzialmente i simpatizzanti di destra. Bravo Manera, bravissimo. Si così sa. Impone la radio. Si sa. È uno zerbino, è un cagnolino. Come la giri, È un appecorato, è un azzerbinato, un inginocchiato. Signori, Leonardo Manera. Piegati al sistema. che non siete altro. Piegati al sistema. Eccolo lì. Caro Leonardo, è un momento importante. Dobbiamo fare gli auguri a una persona speciale. Insomma, signor Orlando, che altri non è che il grande papà di Lorenzo Nespoli, che oggi compie 64 anni, si può dire, perché è un uomo, si può dire. Signor Orlando, tanti auguri, soprattutto da Leonardo Manera, che adesso le fa degli auguri molto particolari. Vai Leonardo. Orlando, so che ormai è in una fase della vita in cui avrà molti, molti ricordi, anche dei rimpianti, parecchi rimorsi, no, quindi spero che questa giornata per lei non sia troppo amara, ripensando agli errori che sicuramente avrà compiuto nella vita come tutti, e i suoi saranno stati anche pesanti, perché ogni tanto suo figlio Lorenzo ne parla un po' con amarezza, dice mio padre, ma si vede che c'è un po' di amarezza. Quindi non è vero, spero non è vero che questa giornata non sia troppo amara per lei, ripensando alle cose fatte nella vita. Falso. È tutto falso, ecco. Lorenzo, la grande stima e grandi auguri a Orlando. Intanto ripartirei da Fabrizio dalla provincia di Cuneo. Poi mi è arrivato un messaggio che devo leggere, non dovrei leggerlo perché utilizza la solita tecnica, lei non avrà il coraggio di leggere questo messaggio. Fabrizio, iniziamo da qua. Fabrizio dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, io sono qui, una bella giornata, sono nelle vigne perché in realtà mi occupo di turismo, e tour operator, e il mio lavoro è svanito in una settimana. Lo so, immagino. E chissà e quando riaprirà, non lo dico per portare rogna, ma insomma, ma allora, chissà quando ripartirà. Se saremo fortunati, si parla di primavera 2021 per noi, però è tutto... Si va avanti di giorno in giorno. Comunque allergico, poco fiducioso, allergico al concetto di aiuti di Stato. Io sono venuto da amici che sono produttori della zona del Barbaresco e mi sono fatto assumere come braccianti agricolo. Ah, quindi lei è uno di quegli italiani che dice in situazione di va a zappare, ma in maniera, deve essere onorato di dire questo, cioè come molti hanno detto perché non lo fanno gli italiani, lei è un italiano che lo ha fatto, visto che la situazione è difficile, complicata. E com'è questo cambio di vita, Fabrizio? Cos'è? A 53 anni duro, soprattutto per le spalle e le braccia. Però questo è un periodo drammatico e siamo ancora dei privilegiati, quindi si va avanti e si vedrà quando si tornerà al nostro lavoro originario, come ci si dovrà reinventare. Ecco. Però ci tenevo a dire una cosa, qui c'è un grosso problema che riguarda proprio la regolarizzazione delle persone che fanno questi lavori. Cioè, io ho dovuto trovare delle persone molto disponibili che hanno preso uno assolutamente incapace, perché io non ho esperienza in materia, si sono fidati e mi hanno assunto. Certo. Non è possibile, se non per alcune categorie molto ristrette, in agricoltura fare la prestazione occasionale. Quindi io penso che in questo momento sarebbe anche il caso di, molto rapidamente, molto velocemente, senza grossi problemi, fare una modifica a questa norma e consentire alle partite IVA, a chi in cassa integrazione o ad altre situazioni di questo genere di accedere ai lavori agricoli anche come prestazione occasionale. Ecco, però Fabrizio, le faccio questa domanda. Lei che giustamente ha detto non avevo esperienza, è facile imparare, perché mi metto dalla parte dell'imprenditore agricolo che dovrebbe assumere una persona come ha fatto con lei, fidandosi della sua buona volontà. Io ovviamente sto facendo i lavori meno tecnici, quindi oggi proprio sto fisicamente zappando, perché chi lavora in biologico, comunque non uso diserbo, va a zappare intorno alle viti, e faccio tutti questi lavori che sono sicuramente meno complessi, ecco. Meno diciamo complessi, sono, e sono anche però quelli spesso fisicamente più duri. Ovviamente sì, il rapporto è una proporzione, salendo uno scende l'altro, quindi più è complesso, meno è faticoso. Però è un bel esempio, possiamo dirlo, però, che lei è un bel esempio. Assolutamente, c'è uno che dice, siccome il mio lavoro forse, se va bene, ripartirà l'anno prossimo, e siccome non sto qui ad aspettare che lo Stato, che per carità forse dovrebbe anche darle un sussidio in realtà, però non sta a aspettare quei soldi, dice, ha preso l'occasione ed è tornato a 53 anni a zappare. Sono qui con dei fantastici signori rumeni che invece sono delle specie di trattorini abituati a far questo, che hanno anche competenze che ogni tanto mi mi cazzano aiutano pure perché sbaglio delle porcherie, quindi veramente Fabrizio in bocca al lupo davvero, ripeto come ha detto Leonardo sottoscrivo, è un esempio estremamente positivo. Allora questo messaggio è che è arrivato, vabbè, a parte gli insulti, sono uno che avveleno i pozzi, sembra che ti abbiano lobotomizzato, vabbè, insomma, lasciamo stare. La però sai che io sono contento perché sì. Questi messaggi sì. Sono il segnale chiaro che stiamo tornando alla normalità. Alla normalità, quale, infatti. Quale fase 2 migliore di questa? È il classico, vuol dire che poco lavoro. Gli ascoltatori che insultano si sfogano. Io invece dovremmo tornare a leggerli perché davvero sono persone che mi spiace per gli psicologi, cioè risparmiano soldi in psicologi sfogandosi qui a Radio 24. La filiera poi degli psicologi si arrabbierà con noi dicendo che gli rubiamo dei clienti, però la critica è stato sbagliato far ascoltare parole e toni violenti nei confronti di un'istituzione quale Presidente del Consiglio, cioè il messaggio che l'assessore regionale Mattinzoli ha mandato dicendo spero che gliene diano tante a Conte. È un'istituzione anche l'assessore regionale, no? Quindi non è uno che passa che dice spero gliene diano tante, è un assessore regionale allo sviluppo economico che ha detto una posizione dicendo mandatela pure ai giornali, fatela sapere, non ho paura di nulla, quindi dovere è stato mandato in onda. Va bene, dai, comunque, Nunzio dalla provincia di Taranto, buongiorno Nunzio. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Un saluto anche all'eminenza grigia Manera. Sì. Richelieu, allora, il grande complottore. Va bene. No, io volevo intervenire, vi sentivo prima sul discorso che i casi di corona di positività vengono fuori se vengono fatti i tamponi. Io ho avuto i primi sintomi il 22 marzo e il 28 ho perso completamente olfatto e gusto e quindi sul consiglio del medico attiva 118, io parlo dalla provincia di Taranto e via verso l'ospedale Covid, TAC polmonare da cui si evidenzia che c'è qualcosa. Rifiuto assoluto di farmi il tampone, è inutile farlo perché tanto quello che vi è evidenziato la TAC ti dice che ha il coronavirus, quindi me ne vado con la diagnosi di coronavirus? No, questo no, no, non glielo posso garantire. Allora mi fa il tampone? No, non glielo posso fare, faremo le segnalazioni. A parte l'esperienza... Cioè, lei ha capito se risulta uno dei contagiati, lei o no? No. Non si capisce. Non risulta. C'era un inizio di polmonite, ma non c'era la certezza che fosse... Quindi lei non è uno di quelli che è conteggiato, non è conteggiato, eppure 90%... Adesso ci arriviamo, perché io a questo punto vengo rinviato a casa, nel frattempo sono passate tipo dalle 18... Classico, a contagiare qualcuno magari a casa, certo. Devo dire che al triaggio ho trovato degli assistenti, degli infermiere che veramente sono la spina dorsale in questo momento. Devo dire quasi commovente, guardate come astronauti che ti danno ma ci venga la conclusione, non so che devo andare al traffico altrimenti. Allora praticamente dal 28 fino all'1 aspetto che qualcuno si faccia sentire, l'1 prendo il numero verde della regione e chiamo. Ho detto scusate, ma avete notizia di questa situazione? No, nessuno ci ha comunicato nulla. Ho detto vabbè, allora ve lo comunico io. Nella mattinata dell'1, quindi dal 22, finalmente nella mattinata dell'1 aprile si attivano e mi danno la conferma di questo, che sono positivo il giorno 3. Io sono un fortunato perché vivo in una villa fuori dal centro abitato, siamo in 5 più mia suocera, quindi siamo un nucleo familiare di 6. Potete separarvi. Insomma, separarci proprio o no. Però insomma conviviamo. Non lo facciamo ai suoi familiari perché tanto è sicuro al 100% che l'avete tutti. E devo dire che in realtà tutti hanno avuto questo Nunzio, sintomo. Allora, siccome va bene, siccome deve andare al traffico, la sua storia mi sembra emblematica di storie simili che stiamo raccogliendo, no Leonardo? Ce ne stanno arrivando tante così, non dico di approssimazione, io capisco che sia difficile gestire questa situazione, il momento è complicato, certo. Il momento è complicato, però allora mi chiedo ancora una volta i numeri che ci danno quanto siano attendibili, nel senso che, Non so, secondo me valgono come un sondaggio, nel senso un sondaggio sull'andamento dell'epidemia su un campione grande, perché poi un sondaggio, va bene. È una specie di un sondaggio sull'andamento dell'epidemia. Ma no, oggi sentivo il professor Lopalco, ha detto è un diario epidemiologico, non è certamente attendibile come numeri. Esatto, al 100%, anzi probabilmente dice ci bisogna moltiplicare per 5, per 6, non lo so. Comunque sentiamo il traffico. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. 1. Nessuno. 100 Milan. Allora, eccoci qui cari ascoltatori con uno nessuno 100 Milan, c'è Umberto dalla provincia di Milano. Umberto. Pronto? Sì. Buongiorno, buongiorno. Volevo fare due considerazioni molto veloci su questa cosa, quando si aprirà, quando non si aprirà la città. Intanto una considerazione di fondo sui numeri. È chiaro che se andiamo a contare quant'è la percentuale di morti dentro una casa di riposo, è come chiedere un confronto fra i morti, che ne so, tra i vigili del fuoco e le estetiste. È evidente che è più alto, lì c'è un sacco di gente malata e questo non ha nemmeno senso parlare. Beh, sì, malata è certamente anziana con altre patologie, però bisognerà anche vedere se è stata protetta adeguatamente. Assolutamente, guarda, io sono testimone di un cugino che è ricoverato, hanno chiuso subito, non è morto nessuno, per cui è evidente che quello è il problema. Poi certo. Una cosa invece che volevo dire era quella sul quando si aprirà. Quando si aprirà non lo so, ma è evidente che quando si aprirà dovremo usare guanti e mascherine. Dopodiché il problema dei trasporti, per cui tendenzialmente non si apre perché non si sa come fare a far andare la gente a lavorare, che si riempiranno i trasporti di gente. Basterebbe intanto mettere tutti i trasporti possibili, tutte le macchine possibili immaginabili sulla strada, quindi tutti gli autobus, tutti i mezzi possibili. Visto che siamo in stato di guerra, si potrebbe anche pensare di lavorare su turni, perché voglio dire, mica tutti dobbiamo lavorare dalle 8. No, ma è chiaro che Umberto, su questo c'è una task force, l'ennesima, che è stata messa in piedi con a capo il dirigente Vittorio Colao. Vedremo come ripartiremo, nel senso si parlerà di turni. Oggi Repubblica dice per esempio che la scuola basta, è finita, ditelo chiaramente, si riparte a settembre, se si riparte e come si ripartirà. Io ripeto, non ho capito come mai Macron va in TV e dice l'11 maggio riparte la scuola. Che sono più bravi i francesi? Sono stati più fortunati? Seguono delle direttive migliori? Oppure ha detto una cosa che poi l'11 maggio non manterrà? Perché c'è anche questo da dire, bisogna capire. Anche questo. Bisognerebbe fare una task force invece, cioè un gruppo che si occupi di capire come gli italiani pagheranno le tasse quest'anno. Una task force. Tax force, va bene. No, Luigi dalla provincia di Bari. Anche all'italiana. Tas. Come paghi? Luigi dalla provincia di Bari. Come paghi i tas? Con la tas. Luigi, vai. Dalla provincia di Bari. Che ci dice Luigi? Buongiorno. Allora, niente, volevo solo dire una cosa. Si stava parlando di far lavorare nei campi chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ok, io sono un agricoltore, un giovane agricoltore, ho una piccola azienda, produco pomodori, peperoni e tutta quella roba lì. Io quelle poche volte che un percepitore di reddito di cittadinanza mi ha chiesto di lavorare, mi ha chiesto di farlo a nero perché vuole percepire vuole continuare a percepire il reddito. Complimenti, bravo. La seconda cosa, che poi comunque non ho assunto, è che quelle poche volte che un altro italiano è venuto a lavorare poco volenterosi, inutile che lo diciamo, cioè inutile che siamo, cioè gli immigrati sono, lavorano in più, però li mettiamo tutti a regola, li paghiamo adeguatamente. Io sono una piccola azienda, io ne ho due, cioè sono vicini di casa, sono due ragazzi marocchini bravissimi, tutti a norma, tutto a regola, ma io voglio dire che comunque io sono aperto ad regolarizzare un italiano, purché però non sia più, cioè mi produca più di quanto lo paghi, ecco, perché comunque io devo pagare di dollaro al giornata i 60 euro al giorno. No, ma è chiaro, Luigi dalla provincia di Bari nota che dalla sua esperienza sul campo che lavorare con gli stranieri sono in genere mediamente più volenterosi, questo ci dice lui dalla sua esperienza. Comunque io credo che sia venuto a trovarci anche un altro imprenditore, ex imprenditore, riciclato poi malamente, devo dire. Buongiorno a tutti, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Allora, buongiorno, caro Alessandro Milo, vedo che oggi non abbiamo tantissimo tempo, quindi andrò direttamente alla favola, perché beh, è un periodo in cui bisogna anche 4 minuti, non ho voglia di fare tutto il pezzo, faccio direttamente la favola. Abbiamo solo 3 minuti. Prego. Queste persone che vogliono obbligarti a fare quello che vogliono loro, anche in un contesto creativo. Tipo a lavorare, allora, insomma, le favole per intrattenere i bimbi in questo periodo di coronavirus. Le favole del clown Neronello. C'era una volta in un regno lontano una bellissima principessa che sedeva imperiosa sul suo trono. Era avvenente, fiera e amatissima dai suoi sudditi perché prima di ogni cosa metteva la loro felicità. La principessa regnava con saggezza e giustizia, senza fare distinzione tra nobili e contadini. Al contrario di suo padre, che le aveva vietato di sposare Caspar, un giovane artigiano molto povero di cui si era invaghita, incapricciata. Da quel momento la principessa aveva rifiutato ogni altro pretendente. I suoi consiglieri le ripetevano che il regno aveva bisogno di eredi, ma lei sognava solo il suo amato Caspar. E così un giorno mise in atto il suo piano per ricongiungersi a lui, a Caspar. Annunciò: sposerò solo colui che mi porterà un anello di rame con una pietra azzurra nel mezzo. Quindi in gran segreto fece recapitare a Caspar l'anello giusto da riportarle. Passarono 3 giorni e il gran ciambellano disse: «L'abbiamo trovato, il pretendente con l'anello è qui!» La principessa aveva indossato il suo abito più bello ed era in trepidante attesa del suo amore. Quando il portone del palazzo si spalancò, il suo cuore ebbe un sussulto. «Sono arrivato, mia meravigliosa principessa!» «Ma tu non sei Caspar! Caspar non ha una dentatura così complessa!» rispose sbigottita la principessa. «Mi chiamo Ortodonzio!» «Ecco!» «Mi chiamo Ortodonzio e ho portato l'anello», rispose il suddito tra l'esultanza della corte. Ortodonzio, infatti, si era finto un tecnico della caldaia ed era entrato in casa di Caspar per rubargli dei soldi. Non tanto nulla aveva preso l'anello, unica colore. Arrivò anche Caspar e accusò Ortodonzio di essere un ladro, ma ormai era tardi e poi, se sei povero, ti credono meno. E così Caspar venne rinchiuso con le tigri nelle segrete del castello, mentre Ortodonzio sposò la principessa e visse per sempre felice e contento, mettendo tutte le spese sul conto di sua moglie. Bambini, qual è la morale della favola? Se credete nella giustizia e provate a difendere le vostre idee, finirete con le tigri nelle segrete del castello. Se invece imparate a escogitare piccole truffe e raggiri, potrete farvi mantenere per sempre da una bellissima principessa. Questa è la morale della favola. Arrivederci con la prossima favola del clown Neronello, l'amico dei bambini. Va bene. Allora, noi mi scuso con caldo dalla provincia di Roma se domani a pazienza lo recuperiamo come ascoltatore, ma il tempo è finito per quel che ci riguarda. Caro, lo stendevo Ortodonzio, devo dire. dire che lo attendevo molto. Va bene, allora ci fermiamo qui anche per oggi. Per questa settimana, sapete, c'è lo speciale di Nicoletta Carbone dalle 10.30 alle 11. Caro Leonardo Manera, è il tuo momento, lo sai. Neronello è andato via, questo imprenditore un po' bizzarro, riciclatosi in maniera strana. Potresti aprire la finestra, lanciare ecco il tuo fatto. Consueto urlo di battaglia e vai. Siamo abbastanza felici. Uno, nessuno.